viaggio importante di un progetto corale di coprogettazione tra istituzioni pubbliche, private, gallerie antiquarie, collezioniste private e associazioni per la pittura a Bologna nel lungo 800. Un progetto che è stato promosso appunto al nostro settore Musei Civici Bologna, che è stato ideato dal nostro Museo Civico e Risorgimento a cura di Roberto Martorelli e Isabella Stancari, che ha creato una messa in rete del territorio proprio su questo tema, cioè la pittura a Bologna appunto nel lungo 800, in una ricognizione monografica mai vista prima d'ora, insomma non era stata mai organizzata, e che permette appunto sia per ampiezza del percorso espositivo, anche della varietà dei luoghi ma anche dei temi trattati, e anche appunto dell'ampiezza del percorso che coinvolge il territorio metropolitano. Permette anche di scoprire al grande pubblico, ma così come a tanti studiosi, anche opere mai esposte prima, perché sono circa 500, di cui un centinaio mai esposte prima. Alcune opere sono state restaurate proprio per l'occasione, che provengono da depositi di istituzioni pubbliche e private. E l'altro elemento di grande importanza è anche che abbiamo creato, attraverso tutte le istituzioni coinvolte, grazie alla collaborazione insieme a noi della Fondazione appunto Carisbo, di Ascom e del comune di San Giovanni in Persiceto, che sono appunto le altre enti e istituzioni che hanno collaborato con noi proprio per la creazione del progetto, ha un public program, quindi di eventi, di conferenze, però anche momenti performativi, e soprattutto un public program che sia adeguato a tutti i target di pubblico, quindi anche il pubblico familiare e i bambini avranno le loro attività didattiche, e i revocatori dell'800 o un 800 APS. E da non bolognese, ma che ha portato a Bologna un grande valore aggiunto di ispirazione e di organizzazione artistica, Eva, cosa puoi dire per invitare i non bolognesi a questo percorso? Ma direi appunto che in realtà questo progetto ci fa vedere come Bologna sia sempre stata un grande crocevia d'Italia, ma anche d'Europa, quindi non soltanto per i bolognesi ma per la storia d'Europa, e con pittori e artisti che non sono stati importanti solo per l'identità territoriale ma internazionale. Quindi una mostra per tutte e per tutti. Sì. Grazie e buona giornata. Grazie.